2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'8 e 9 agosto 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet, trovate tutte le informazioni su www.radio24.it. Forse la notizia più importante della settimana è l'attacco a Twitter. Stiamo parlando di cybercrime, di cyberterrorismo, insomma un attacco informatico che giovedì per qualche ora ha mandato fuori uso Twitter, appunto uno dei sistemi di messaggistica più utilizzati nel mondo. Sapete che Twitter è un servizio cosiddetto di microblog, dove possono essere pubblicati brevi messaggi, lunghi o corti, dipende dai punti di vista, quanto un SMS, e aggiornabile anche via cellulare proprio con un messaggino. La facilità e la rapidità con cui è possibile aggiornare queste pagine ne ha decretato un successo planetario. Oggi questo sistema è utilizzato ormai da 45 milioni di persone in tutto il mondo. Spesso Twitter viene usato con un flusso, come un flusso di messaggi per raccontare ad esempio quello che si sta facendo in un determinato momento. Bene, giovedì un blogger che usa come pseudonimo Zaximu, dal nome di una città della Georgia, è stato preso di mira da un attacco che in termine tecnico viene definito denial of service. In pratica gli hacker in questo caso inondano con milioni di richieste contemporanee i server che gestiscono un sito internet, mandandolo in tilt. Chiaramente è più facile mandare fuori uso un sito che normalmente è capace di gestire poche richieste, mentre è ben più difficile mettere KO siti come Google, che è preparato a gestire e soddisfare milioni di richieste contemporanee, forse nel caso di Google anche miliardi di richieste contemporanee. Beh, in tutto ciò c'è un risvolto politico a questo attacco, perché il tutto si inserisce nel primo anniversario della guerra tra Russia e Georgia, e il blogger nel mirino è noto per le sue critiche ai due governi. Twitter, dicevamo, come dicono gli esperti, è andato giù ed è stato irraggiungibile per alcune ore, mentre Facebook e altri siti internet hanno avuto alcuni problemi, quindi è stato un attacco che non era indirizzato solamente a Twitter. Ma la cosa interessante o preoccupante di questa vicenda è che rivela quanto vulnerabili siano i siti di social network, o potremmo dire in generale quanto forte sia anche l'interesse di organizzazioni o forse addirittura di nazioni sovrane di fermare chi esprime posizioni critiche online. Insomma, potremmo dire che sotto attacco è stata la libertà di espressione che questi sistemi, internet in generale, offre a tutti i cittadini. Twitter, lo ricordiamo, è anche il sistema più usato dall'opposizione iraniana per organizzare le proteste di piazza che vanno in scena anche in questi giorni. A proposito di sicurezza informatica, la Casa Bianca ci informa che il presidente Barack Obama è ancora alla ricerca della persona giusta per ricoprire l'incarico di responsabile della lotta contro il crimine informatico. Gli Stati Uniti sono uno degli stati più bersagliati dal cyberterrorismo e anche uno dei paesi che si è già preparato, ma si sta preparando ancora in maniera più forte ad una risposta, quindi ad una difesa digitale. Quindi se avete un buon curriculum in questo campo, beh, potete anche inviarlo alla Casa Bianca. Verrà sicuramente valutato. Attenzione però per chi è alla ricerca di lavoro, perché alcuni esperti di lavoro americano consigliano le persone che vogliono cambiare o che cercano lavoro perché sono disoccupate di essere estremamente attente a quello che pubblicano su internet. Facebook, Twitter, YouTube, i blog e altri strumenti sul web presentano numerose occasioni per fare fallire la ricerca di un lavoro. Sostanzialmente dicono questi esperti, se su questi siti c'è qualche cosa, una frase, una fotografia, un video che possa essere mal interpretato, questo potrebbe essere un elemento negativo per la ricerca di lavoro. Sono sempre più frequenti infatti i responsabili delle risorse umane che danno un'occhiata a internet prima di fare un colloquio o di assumere una persona. Quindi si riceve un curriculum e prima di magari parlare con questa persona si va a fare una ricerca ricerca su internet, magari ci si imbatte in una pagina su un social network, una pagina che si pensa venga vista e letta solo dagli amici, in realtà in quel caso si va incontro magari a problemi nella ricerca del proprio lavoro. Un'altra notizia della settimana arriva da Robert Murdoch, che si prepara a trovare il modo per convincere milioni di persone a pagare per le notizie che leggono su internet. La sua News Corporation potrebbe fare pagare, oramai è certo che vorrà fare pagare l'accesso ai suoi siti web di notizie da forse già da quest'anno, perché si parla di metà novembre. Il Sunday Time dovrebbe essere il primo sito internet della News Corporation ad essere messo a pagamento da metà novembre. Andrà online quindi l'edizione domenicale del Times, che avrà una sezione staccata e appunto a pagamento. Vedremo poi se questa idea verrà concretamente poi diffusa anche agli altri siti della News Corporation. Gli esperti su questa idea sono divisi, molti ritengono che gli abbonamenti non riescano a ripagare la fuga di investitori pubblicitari dovuta all'inevitabile calo di lettori. Sicuramente si ripropone anche il tema della qualità dell'informazione online. Molti siti, soprattutto in Italia, non hanno ad oggi una ricchezza di contenuti e anche una indipendenza tali da convincere milioni di lettori al pagamento di un abbonamento. E poi ci sono molti editori minori che ci dicono non vedono l'ora che i grandi gruppi editoriali facciano questa mossa, perché dicono sono convinti che internet sia ormai un luogo dove le notizie sono gratuite, pagate dalla pubblicità, quindi questa mossa inevitabilmente potrebbe spostare molti lettori su siti alternativi o comunque non sui siti dei grandi editori, se anche in Italia dovessero scegliere questa linea che Murdoch ripropone già da un po' di tempo. Parliamo di musica, perché Sony, Warner, Universal e EMI, quattro delle principali major mondiali, sono sul punto di lanciare sul mercato un nuovo sistema digitale che permetterà di scaricare a pagamento dal web non solo canzoni, interi album musicali con copertina, grafica, testi, foto, video e non solo le tracce, quindi i file MP3. Una nuova tecnologia chiamata CMX dovrebbe essere disponibile entro il mese di novembre e verrà lanciata in modo piuttosto soft, come una sorta di test. Ci dovrebbe essere tra i primi album anche quello nuovo degli U2. L'obiettivo è quello di rivitalizzare il mercato della musica digitale, predominato dall'acquisto del singolo pezzo. Anche la Apple sta andando in questa direzione con un progetto simile chiamato Cocktail, questo per il momento è il nome in codice, che dovrebbe essere pronto entro 2 mesi, quindi lo attendiamo per dopo l'estate. Questo è 2024, un'edizione estiva. Nel mese di agosto vi riproponiamo alcune delle interviste più interessanti che abbiamo mandato in onda durante l'anno. Naturalmente vi aggiorniamo anche sulle ultime novità e sulle ultime notizie, ma adesso parliamo di geolocalizzatori. Non dei classici GPS a cui molti potrebbero pensare, parliamo di geolocalizzatori. Sono dei piccoli aggeggi che si basano sul sistema GPS, sul sistema satellitare di geolocalizzazione. Che cosa sono i geolocalizzatori, questi strumenti, queste piccole scatole, ma soprattutto a che cosa servono, quali tipi di geolocalizzatori esistono e soprattutto perché ne parliamo proprio oggi in questo periodo, mentre la tecnologia è una tecnologia che conosciamo già da qualche tempo. Saluto e ne vogliamo parlare con Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale. Simone, bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie mille. Prima di chiederti che cosa sono i geolocalizzatori, vorrei chiederti perché parliamo proprio in questo periodo di geolocalizzatori. Anche tu recentemente su PC Professionale ti sei occupato, hai provato sul campo una serie di prodotti. Dicevo che questa è una tecnologia piuttosto consolidata, non stiamo parlando di una novità assoluta. Forse il modo con cui viene concepita e utilizzata questa tecnologia sta un po' cambiando. Sì, diciamo che, come tu giustamente dicevi, il geolocalizzatore in sé si basa sulla tecnologia GPS, che è una tecnologia che ormai esiste da anni, è matura anche in ambito civile da diverso tempo. Il geolocalizzatore sta esplodendo sul mercato in questi ultimi mesi perché si occupa non come il nostro navigatore che usiamo in auto di indicarci la strada, serve per funzioni più particolari, per segnalare emergenze, ad esempio. Se noi ci troviamo in situazione di emergenza, possiamo usare il geolocalizzatore per farci trovare da qualcuno che ci aiuti, per tracciare la nostra posizione e quindi verificare i percorsi che noi facciamo, per turismo ad esempio, e può essere anche utilizzato per controllare dove sono i nostri cari. Quindi ne parliamo perché, diciamo, sta avendo un successo di mercato. Assolutamente. Sembra strano e paradossale, noi già da molto tempo parliamo, e uno dei temi che viene spesso dibattuto quando si parla di tecnologia è quello dell'integrazione, della convergenza. Qua stiamo parlando di un prodotto che è tutt'altro che convergente, integrato con altri, cioè proprio una scatola che fa fondamentalmente una cosa, cioè traccia la nostra posizione sulla Terra. Sì, esattamente. Dal punto di vista tecnico, il geolocalizzatore è una piccola appliance, una piccola scatoletta delle dimensioni, delle dimensioni di un piccolo cellulare, una saponetta, che contiene un ricevitore GPS, e quindi in pratica fa solo una cosa: traccia la propria posizione in termini di longitudine e latitudine. Uno potrebbe dire, e quindi che cosa me ne faccio? Esattamente, no, se ne possono fare tante cose. Ad esempio, possiamo portarlo con noi quando andiamo a fare un'escursione a piedi, in bici, in montagna, torniamo a casa a fine giornata, lo colleghiamo al computer e possiamo avere visualizzato, magari attraverso un software cartografico come ad esempio Google Maps, tutto il percorso che abbiamo effettuato. Quindi, per puro scopo ricreativo, a fine giornata possiamo vedere che cosa abbiamo fatto, dove siamo andati durante la giornata, quindi tutto il nostro percorso. Certo, un'applicazione del genere posso pensare che possa essere utilizzata anche per lavoro. Probabilmente ci sono dei tipi di mestieri che richiedono, che ne so, l'osservazione di un tracciato. Nella maniera più assoluta. Noi poi adesso parliamo di GPS localizzatori per uso consumer. È sottinteso che poi c'è tutto un mondo di localizzatori per uso business, per la gestione delle flotte aziendali di macchine, ad esempio, per controllare dove sono le nostre macchine aziendali. Quindi anche in questo senso è un mercato che è già maturo da tempo, sta solo diffondendosi anche in ambito consumer. Tu hai fatto riferimento ad un'applicazione, poi parliamo dell'applicazione e degli altri utilizzi che si possono fare di questi strumenti. Però vorrei subito, detto che cosa sono i geolocalizzatori, che cosa fanno i geolocalizzatori, dire qualche cosa in più sui tipi, perché ci sono fondamentalmente due tipologie: il localizzatore basato sulla tecnologia GPS passivo e quello attivo. Qual è la differenza? Esattamente. Allora, il localizzatore passivo è un ricevitore GPS, punto e basta. Al massimo quello che fa è registrare in memoria a intervalli periodici la posizione per avere un log, diario delle posizioni. Chiusa la scatola. Esattamente. Invece un geolocalizzatore attivo abbina il sistema GPS a una ricetrasmittente GSM, cioè essenzialmente a un piccolo telefonino. Perché integrare un piccolo telefonino a bordo di un geolocalizzatore? Semplicemente per poter inviare in qualsiasi momento la propria posizione, quindi non tornare a casa la sera e vedere dove siamo stati, ma se ad esempio vogliamo inviare in tempo reale la nostra posizione a qualcuno, possiamo tramite la rete cellulare inviarla in tempo reale, quindi le nostre coordinate. Oppure può essere un sistema per controllare dove si trova la persona o la cosa su cui è montato il localizzatore a distanza. Ad esempio, mettiamo il localizzatore in macchina e in un momento qualsiasi vogliamo vedere dove si trova la nostra macchina, noi possiamo chiedere a distanza al localizzatore di inviarci la posizione. Non parliamo di macchina, parliamo di persone. Mettiamo il geolocalizzatore nello zaino del bambino, di nostro figlio, e vogliamo vedere se alle 11 è veramente a scuola o avvigiato. Semplicemente inviamo una richiesta, ci vengono restituite le coordinate, possiamo verificare tramite cartografia se veramente la persona che stiamo controllando è dove dovrebbe essere. Senti, tu facendo riferimento a quest'ultima applicazione, che può essere comunque simpatica, interessante o vista in un altro modo preoccupante, ma al di là, insomma, dell'utilizzo che ne viene fatto, se io metto questo aggeggio in uno zaino, riesce lo stesso a vedere il segnale del satellite? Sì, assolutamente. Dei satelliti. Sì, no, assolutamente. Abbiamo, durante le nostre prove abbiamo anche verificato, ci tenevamo a verificare queste cose, perché i navigatori per auto generalmente sono posti sul parabrezza, quindi è chiaro che hanno una buona visibilità del cielo. In realtà questi prodotti riescono a ricevere bene il segnale GPS anche in tasca, in uno zaino, anche in macchina, non necessariamente nei pezzi del parabrezza. Diciamo che abbiamo avuto qualche difficoltà solo quando ci trovavamo all'interno di edifici, non in prossimità delle finestre. Però ribadisco, in auto, in borsa, in uno zaino, in tasca, la ricezione è pressoché perfetta. Quindi la sensibilità è aumentata moltissimo negli ultimi assolutamente, anni. Assolutamente, assolutamente. E ovviamente poi il problema non si pone con le reti cellulari se non quando abbiamo mancanza di copertura. Sì, sì, sì. Stiamo parlando di geolocalizzatori, che non sono i navigatori satellitari classici da auto, sono piccole scatoline che possono essere messe in uno zaino, tenute in tasca, che servono per, come abbiamo detto, ad esempio tracciare un percorso oppure mandare un segnale per dire ad un computer o ad una persona dove ci troviamo. Abbiamo appunto parlato di geolocalizzatori passivi e anche di geolocalizzatori attivi, che hanno una SIM dati che si collega con la rete di telefonia mobile e restituiscono appunto questa informazione della posizione. Siamo con Simone Zanardi del laboratorio di PC professionale. Simone, parliamo in modo più approfondito dei geolocalizzatori passivi. Che cosa ci si può fare e quanto costano? Perché anche questo è un aspetto interessante. Ok, iniziamo dai costi. Un ricevitore GPS passivo, quindi un geolocalizzatore passivo, ormai è disponibile a meno di 100 euro. Quindi una cifra relativamente modesta. Cosa ci si può fare? Essenzialmente un ricevitore passivo ha a bordo un log per registrare la posizione nel tempo, quindi quello che abbiamo detto prima. Cioè una memoria interna. Una memoria interna registra il percorso che facciamo e a fine giornata lo possiamo rivedere, importarlo in applicazioni di cartografia o portali anche web di cartografia. Cos'altro può fare? Una funzione interessante che alcuni di questi prodotti hanno è quella di ritrovare un punto o più punti che abbiamo memorizzato. Facciamo un esempio urbano e uno extraurbano. Va bellissimo, questo mi piace. Ad esempio, se noi abbiamo paura di perdere o di non ricordarci dove abbiamo lasciato la macchina parcheggiata, possiamo cliccare sul nostro geolocalizzatore, questo memorizza la posizione della macchina prima che noi la lasciamo, andiamo a fare il nostro giro, se non ci ricordiamo noi possiamo chiedere al geolocalizzatore di indicarci dov'era la posizione della nostra macchina e abbiamo, diciamo, una sorta di bussola elettronica che ci riconduce dove la nostra macchina si trova. Quindi non c'è proprio una mappa navigazione, cioè sono delle frecce. Esattamente, ti indica la direzione dove andare. L'esempio della macchina può anche essere quello di un negozio che ci piaceva, quindi non so, abbiamo visto una vetrina interessante, segnaliamo al GPS di registrare la nostra posizione, poi facciamo un giro e possiamo tornare. Marchiamo la posizione e poi torniamo. Esattamente. In ambito extraurbano può essere anche una cosa un pochettino più seria, nel senso più utile. Siamo in montagna, vogliamo registrare la posizione di una baita o di un campo base, poi ci perdiamo e non sappiamo dove dobbiamo muoverci, possiamo utilizzare questa funzione per tornare al campo base, per tornare al punto che avevamo registrato. Quindi, mi viene in mente che c'è anche una caccia al tesoro mondiale collegata con i GPS, ma ne abbiamo parlato 4 o 5 anni fa, non torniamo sul tema, anche se potremmo tranquillamente tornare. Dicevi, altre possibilità. Sì. Poi un'altra applicazione carina che non richiede la trasmissione via rete cellulare, quindi è a tutti gli effetti utilizzabile anche tramite geolocalizzatori passivi, è per esempio la georeferenziazione delle foto, delle immagini. Quello che gli esperti definiscono geotagging. Esattamente, geotagging, che ormai è un termine abbastanza diffuso, perché quando noi scattiamo le foto col nostro telefono cellulare, se il telefono cellulare è munito di ricevitore GPS, è possibile fare appunto il geotagging. Geotagging vuol dire semplicemente inserire all'interno delle informazioni sulla dell'immagine anche le coordinate dove del punto in cui noi abbiamo scattato la foto. Associare le due informazioni. Sì. Se però noi abbiamo una fotocamera che non ha ricevitore GPS integrato, per esempio una fotocamera vera e propria, possiamo comunque recarci con la fotocamera e col nostro geolocalizzatore. Scattiamo le foto con la fotocamera e intanto il geolocalizzatore registra il suo log. Quando torniamo a casa utilizziamo il software geolocalizzatore. Il software cosa fa? Essenzialmente estrae dalle foto le informazioni sull'ora in cui noi abbiamo scattato la foto, le compara col suo log e quindi è in grado di risalire al luogo in cui eravamo in quel momento e poi reinserisce le informazioni di coordinate sulla foto. Incredibile. Esattamente. Cioè incredibile, insomma, molto semplice di fatto perché l'operazione è banale, però insomma un po' mi stupisco, mi piace molto. L'unica esigenza è quella di avere gli orologi sincronizzati. Esattamente. Puntuali, perché puntuali. Poi se no, se gli orologi sono sballati le posizioni naturalmente. Sul GPS non c'è rischio perché l'orologio del GPS deve essere preciso per forza. Sulla fotocamera dobbiamo badare noi. Sì, perché gli viene comunicato dai satelliti. GPS, sì. Allora, questo è il capitolo dei ricevitori, dei geolocalizzatori passivi. Le cose si fanno molto più divertenti nei geolocalizzatori attivi, cioè quelli che oltre a sapere la posizione dove ci troviamo, oltre a tracciare la posizione dove noi siamo o dove ci muoviamo, comunicano anche qualche cosa ad un altro dispositivo oppure al web. Questo è interessante. Esattamente. Il geolocalizzatore attivo nasce in primo luogo per questioni di sicurezza, di emergenza. Cioè un geolocalizzatore attivo che, per la cronaca, è disponibile sul mercato, stiamo parlando di cifre a partire da 200 euro, quindi l'investimento è leggermente superiore. Sì, il doppio circa. Esattamente. Con un ricevitore, con un geolocalizzatore attivo noi possiamo, ad esempio, sfruttare la funzione SOS. Che cos'è? Essenzialmente noi abbiamo a bordo del geolocalizzatore un tasto di emergenza. Il geolocalizzatore è programmato in modo tale che quando noi premiamo questo pulsante invia le nostre coordinate, quindi la nostra posizione, a uno o più numeri che noi abbiamo impostato. Quindi possiamo comunicare il nostro stato di emergenza, quindi la richiesta di soccorso, a uno o più persone che poi provvedono al soccorso. Cosa c'è? Una voce automatica? Tipicamente un SMS. Un SMS. Può essere un SMS con sono in difficoltà e mi trovo in questo posto. Sì. Può anche essere una cosa vocale registrata. Questo sì. Dipende un po' da come è implementato. Sì, sì, sì. Diciamo che in questo caso uno lo può utilizzare se non riesce a comunicare con il cellulare, sì. Se non ha il cellulare, ad esempio. E il vantaggio è quello che viene tracciata automaticamente la posizione. Esattamente. Ovviamente la funzione di emergenza può essere bidirezionale, cioè non solo noi segnaliamo il nostro stato di difficoltà, ma possiamo anche essere contattati, o meglio, il localizzatore può essere contattato per verificare dove ci troviamo nel caso in cui noi non fossimo impossibilitati ad attivare il tasto di SOS. Quindi può anche essere una richiesta di informazione da parte della terza parte. E qua apriamo appunto il capitolo del, chiamiamolo, controllo. Alcuni potrebbero spaventarsi, però di fatto è un controllo che si può fare. Allora, essendo questi aggeggi della seconda tipologia, diciamo così, attivi e quindi inviando delle informazioni alla rete internet fondamentalmente, anche se si possono pensare a sistemi chiusi, ma insomma, giusto per semplificarci la vita, parliamo della rete internet via rete cellulare, questi sistemi possono anche essere interrogati e quindi insomma, come tu dicevi, appunto la funzionalità è bidirezionale. Allora qua si apre un ventaglio di possibilità, la fantasia è l'unico limite, però giusto per fare alcuni esempi, che cosa si può fare? Beh, l'esempio più classico a cui si ricorre quasi sempre è quello del bambino, no? O del ragazzo, il genitore o dell'amante, non volevo dirlo, ma tu l'hai detto. Comunque facciamo l'esempio della scuola, sì. Così parliamo anche di una funzione carina che è il geofencing. Il genitore, un pochettino diciamo apprensivo, può fornire al figlio, oppure infilare nello zaino senza dirglielo, un geolocalizzatore al figlio e in qualsiasi momento richiedere la posizione del geolocalizzatore. Quindi, ad esempio, facciamo alla mattina, vogliamo verificare che il nostro figlio sia a scuola come dovrebbe essere, noi inviamo una richiesta e il localizzatore la riceve e ci invia di rimando le coordinate, possiamo verificare sul software cartografico dove si trova. C'è una funzione carina che si basa su questo principio, ma leggermente più articolata, che si chiama geofencing, che tradotto in italiano vuol dire semplicemente recinto virtuale, diciamo. Sì. Bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, ci trovate su Radio 24 il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 16.30, oppure la domenica alla sera tra le 22 e le 23 e naturalmente online. Vi consigliamo, come facciamo settimana dopo settimana, di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Trovate online tutte le informazioni su www.radio24.it. Entrate nella parte dedicata al podcast, lì trovate tutte le informazioni, oppure potete scriverci una email e vi tracceremo una strada appunto per abbonarvi gratuitamente al servizio. E dopodiché potete scegliere voi quando riascoltarci, anche il modo con cui riascoltarci, che ne so, 10 minuti al giorno, oppure mentre passeggiate, mentre correte e fate un po' di sport. 2024 sta parlando di geolocalizzatori. In questa puntata con noi Simone Zanardi, che è un ingegnere che riesce anche a spiegare come funzionano questi aggeggi tecnologicamente molto avanzati. Stiamo parlando di geolocalizzatori attivi, cioè di aggeggi che ricevono il segnale del GPS, quindi sanno dove si trovano, e tramite la rete di telefonia mobile hanno una SIM dati all'interno, tramite la rete di telefonia mobile restituiscono ad un computer o addirittura ad un altro telefonino la posizione in cui si trovano. Abbiamo parlato poco fa del cosiddetto geofencing, cioè dei recinti virtuali. Allora Simone, che cosa sono e a che cosa servono questi recinti virtuali? Essenzialmente noi impostiamo il nostro localizzatore con un'area che definiamo sicura, una sorta di recinto. Sì. Se il geolocalizzatore verifica che la persona è uscita da quest'area, automaticamente invia un segnale di emergenza per segnalare che si è oltrepassato, diciamo, il limite. Quindi ad esempio appunto il limite della scuola. Sì. Noi vogliamo verificare che nostro figlio non esca da un raggio di 500 metri, lo si può fare. Ad esempio con le auto, vogliamo verificare che la nostra auto non esca dalla zona urbana, impostiamo un geofencing con un raggio di qualche chilometro e possiamo essere avvertiti se l'auto abbandona. Ok, senti, usando sempre l'esempio del bambino, il genitore che volesse creare questo recinto virtuale, quindi impostare questo recinto virtuale, dove lo fa? Deve andare fuori e passeggiare attorno alla scuola e impostarlo dal vivo, oppure lo fa su una mappa, sul computer? No, assolutamente. Il geolocalizzatore, quando è collegato al computer, si può interfacciare con un software cartografico. Noi indichiamo ad esempio l'indirizzo e il geolocalizzatore traduce questo indirizzo in coordinate e poi dalle coordinate crea il recinto, che è essenzialmente una distanza dal centro, diciamo, di controllo. Quindi ogni giorno, tipo il genitore alla sera potrebbe dire: vabbè, domani il tuo limite è questo. Esattamente. C'è un'altra funzione abbastanza carina, che però richiede che anche la persona che controlla sia munita di GPS, tipicamente sì, con un cellulare con GPS, che è invece il guinzaglio virtuale. Qui siamo a un livello ulteriore di perversione. Di follia, esattamente. Sì, sì. Cioè impostiamo una distanza massima tra noi e la persona osservata. Quindi il centro del guinzaglio non è più un punto fisso, ma siamo noi. Quindi vogliamo controllare che nostro figlio non si allontani più di 5 km o di 200 metri. Quello che vogliamo. Come dicevi tu, le applicazioni sono limitate solo dalla fantasia degli sviluppatori, nella sì, maniera più assoluta. Ecco, infatti vorrei capire se il panorama di cui stiamo parlando è un panorama che è limitato a questi strumenti, che sono fondamentalmente delle scatolette che hanno, come tu dicevi, sono un ricevitore GPS, quindi un piccolo chip, e in alcuni casi, nei casi dei geolocalizzatori attivi, anche l'antennina e la SIM dati per trasmettere dati, quindi in maniera attiva, oppure stiamo parlando di una cosa che non ha più un limite, e penso in modo particolare alla deriva che può avere nel mondo della telefonia mobile. Sì, beh, già oggi esistono dei produttori che non offrono semplicemente il geolocalizzatore, cioè la scatoletta, ma offrono una piattaforma completa. Citiamo UbiSafe, perché è il prodotto che abbiamo provato in questa rassegna su PC professionale, che è essenzialmente una piattaforma completa che è composta da geolocalizzatore, servizio web ed eventualmente software per telefoni cellulari. Quindi noi possiamo acquistare a un canone mensile, o meglio noleggiare un canone mensile, uno o più localizzatori, e abbiamo accesso a un portale web da cui gestire tutti i nostri contatti e verificare in tempo reale la posizione dei nostri contatti. Quindi con funzioni analoghe a quelle che abbiamo appena detto, ma con un servizio web già predisposto, un portale a noi dedicato dove verifichiamo la posizione dei nostri contatti. C'è di più. Possiamo anche installare un software sul telefono cellulare per verificare la posizione direttamente dal telefono cellulare, o in modalità passiva, nel senso il telefono cellulare si limita a ricevere tramite rete internet le informazioni, oppure se il telefono cellulare è dotato di ricevitore GPS, per sfruttare quelle funzioni evolute di cui parlavamo prima, in cui sia il controllante che il controllato hanno possibilità di comunicare la propria posizione. Quindi diciamo un sistema completo. Poi è chiaro che qualsiasi, in linea teorica, qualsiasi cellulare dotato di ricevitore GPS può svolgere le funzioni di geolocalizzatore nella maniera più assoluta. Sì, ci vuole l'applicazione giusta. Esattamente, è stata un'applicazione che, come dicevi te, non per banalizzare, ma non è una cosa difficilissima. Si tratta semplicemente di interpretare le coordinate che il ricevitore GPS fornisce, di registrarle ed eventualmente inviarle a terze parti. Sì, mi sembra che questo campo sia esattamente il tipico settore, il tipico scenario dove le tecnologie sono ampiamente conosciute e ampiamente mature. Quello che mancava era un po' l'integrazione, la fantasia, l'applicazione giusta. Nella maniera più assoluta, le tecnologie erano mature, chiaramente anche l'abbattimento dei costi contribuisce. Certamente. Cioè, oggi un telefono cellulare con GPS integrato costa 150-200 euro al massimo. Sì. Chiaro che stiamo parlando di tecnologie che 5 anni fa costavano ancora ben di più. È chiaro che quando la tecnologia scende, poi a quel punto si sviluppano anche applicazioni consumer che sono essenzialmente dei software che sfruttano l'hardware che ormai è diventato alla portata di tutti. Ecco. Sì, sì, sì. Noi abbiamo parlato di controllo, naturalmente questa parola fa scattare tutta una serie di allarmi, perché poi entra in ballo anche il tema complesso, delicato e molto importante della privacy, ma possiamo pensare ad esempio a applicazioni commerciali. Entriamo in un'area di un centro commerciale, di un negozio particolare, il nostro telefonino dotato di ricevitore GPS sa che siamo entrati in quest'area e magari se siamo collegati ad internet riceviamo, che ne so, l'offerta dell'ultimo minuto. Quindi insomma le applicazioni sono le più varie. È chiaro che in futuro poi il sempre maggiore collegamento dei telefonini alla rete insomma creerà veramente una confusione di servizi veramente incredibili. Simone, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie anche del lavoro che immagino sia stato anche un po' divertente. Sì, sì, sì, è stato divertente. Controllare, essere controllati, diciamo. Bene, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie Enrico, alla prossima. Adesso parliamo di motori di ricerca per cercare anche di capire quanto stanno diventando importanti i motori di ricerca, i servizi di ricerca su internet, e quanto stanno diventando più sofisticate tutte le tecniche per farsi trovare dai motori di ricerca. Beh, capirete molte delle cose che vi ho anticipato, le capirete nel corso della nostra chiacchierata con Nereo Sciutto, che è presidente di Web Ranking, una società di search marketing, ovvero il marketing che si fa sui motori di ricerca. Benvenuto a 2024. Grazie. Quando diciamo search marketing, a che cosa facciamo riferimento? A tutta una serie di tecniche e tecnologie molto complesse, ma se volessimo tradurre e spiegare di che cosa si tratta, come lo spieghiamo? Sintetizzandolo potremmo dire che è il marketing che viene fatto attraverso i motori di ricerca o usando i motori di ricerca come strumento, quindi semplicemente le tattiche del marketing tradizionale applicate su un canale che è quello internet, nello specifico all'interno dei risultati dei motori di ricerca. I motori di ricerca sono oggi molto importanti nel contesto della navigazione, cioè quando noi navighiamo, è un'esperienza comune, ma ci sono anche dei dati che lo dimostrano, il motore di ricerca è importante, tanto che molte, adesso non so qual è la percentuale precisa, molte delle pagine visitate sono visitate grazie ai suggerimenti di motori di ricerca. Sì, come hai detto giustamente Enrico, l'esperienza quotidiana che ognuno di noi ha è nel motore di ricerca come mediatore fra le cose che stiamo cercando e tutta la grandissima mole di informazioni effettivamente presenti sulla rete, su internet. Il motore è l'unico veicolo attraverso il quale possiamo esprimere un nostro bisogno informativo fondamentalmente e ricevere una risposta fra tutte le possibili. E qua scatta il problema,

delle richieste di comportamento corretto. Etico. Di non usare dei trucchi. Esatto, di non usare dei trucchi sporchi. E quindi chiedono di non fare questo, perché è molto facile che chi viene scoperto a utilizzare trucchi venga cancellato dagli archivi per un periodo di tempo. Come dicono gli esperti, bannato. Bannato, esatto. Anche se è un brutto termine, però. Bruttissimo, però è una forma di spam, come quella della posta elettronica. Sì. A volte si tende a produrre dei contenuti dedicati esclusivamente a essere trovati sui motori, che però tendono a inquinare i risultati. Stiamo parlando di motori di ricerca e con noi Nereo Sciutto, presidente di WebRanking, una delle principali società italiane specializzate nel search marketing, comunque in tutte le tecniche di marketing legate ai motori di ricerca. Detta così sembra semplice, ma in realtà questa è un'operazione, questa è un'attività molto complessa. Nereo, ci puoi spiegare come funziona un motore di ricerca, come fa a creare questi grandi archivi e poi a restituirci le risposte che noi cerchiamo? Non sempre funzionano, ma insomma nella maggior parte dei casi troviamo le risposte. Prima di tutto va detto che ogni motore di ricerca ha un proprio algoritmo, una propria regola interna, un proprio programma per organizzare i contenuti. Questo è un segreto industriale, perché i motori di ricerca, non ce lo dimentichiamo, sono in concorrenza fra di loro. Quindi del funzionamento ad esempio di Google sappiamo molto in base all'empiria, in base alle pratiche, ai test che facciamo, ma effettivamente come sia questa regola Google se lo tiene ben stretto. Di base, fondamentalmente, i motori inviano un software che viene chiamato Spider, ragno, visto che si parla di web come una ragnatela. Sì, il ragno che si muove nella ragnatela. Esatto. Il ragno raggiunge tutti i siti web, rendetevi conto di quanti possono essere nel mondo, diversi miliardi, raggiunge ogni sito web possibile. E ricordiamoci sempre che questo Spider è un software, cerca con un po' di intelligenza di entrare nel sito, navigare all'interno delle pagine e capire di che cosa parla. Questo è il primo passaggio, raggiungere il motore di ricerca, raggiungere il sito, capire di cosa parla e riportarlo a Google o a Yahoo. A questo punto il motore di ricerca applica a tutti i siti trovati dagli Spider una regola che fa sì che per una certa specifica ricerca un sito venga considerato più rilevante, più autorevole, migliore. Il successo del motore di ricerca è sempre e comunque nella qualità dei risultati che ci fornisce quando lo usiamo. Quindi il loro scopo è quello di organizzare i contenuti, e per una ricerca, mettiamo caso, su un appartamento in Bicocca qua a Milano, tenderà a dare tutti i risultati dei siti che secondo lui sono migliori e che presentano offerte di appartamenti in affitto o in vendita in Bicocca. Quindi il successo del motore di ricerca è restituirci il risultato che effettivamente nel caso dell'appartamento alla Bicocca parli veramente di quello. Esatto, quindi tornando al discorso di prima, non contenga spam o comunque non contenga pagine che in realtà non c'entrano nulla, che vengono fatte solo per quello. Il motore di ricerca, lo Spider, legge, se capisco bene. Esatto, e qua è il primo consiglio che possiamo dare agli ascoltatori su come migliorare i propri siti o come progettarli. Il motore legge il testo presente nelle pagine. Purtroppo non è una persona, quindi non capisce le immagini, non riesce a interpretarle e ha dei problemi in generale per tutti i siti che contengono un'altissima percentuale di grafica. A questo punto il primo consiglio è quello di scrivere le cose all'interno delle pagine, prediligere sempre una struttura che sia comunicativa ma anche con del significato all'interno, con una parte semantica. Con dei contenuti. Con dei contenuti del testo. E soprattutto, fondamentale, non copiare questi contenuti. Il motore ha una particolare predilezione per i contenuti unici. Se comincia a trovare lo stesso contenuto in due o tre siti, deciderà, secondo le sue regole, si insospettisce. Tenderà a decidere qual è di questi tre quello che secondo lui è più autorevole e cancellerà gli altri due, cioè non considererà gli altri due. C'è un'altra cosa importante che mi ha sempre stupito da un lato e affascinato, cioè i link. Cioè il motore di ricerca fa attenzione a quanti link ci sono sul mio sito e quanti link rimandano al mio sito. Esatto, è stata l'invenzione di Google e il motivo per il quale l'algoritmo di Google è riuscito ad avere così tanto successo. Non ci dimentichiamo che Google nel mondo, nel settore dei motori di ricerca, è l'ultimo nato, però è diventato molto velocemente il primo in termini di percentuale di utilizzo in tutti i paesi del mondo. L'ha fatto perché ha cominciato a non fidarsi solo di quello che c'era scritto dentro la pagina, ma di misurare l'autorevolezza o l'importanza dei siti in funzione del numero di altri siti che hanno un link verso il mio, verso questo sito. In questo modo Google dice, se un sito viene linkato molto, cioè da altre parti ci sono dei collegamenti che rimandano a lui, sarà per forza di cose importante. Se fra due siti, fra due contenuti identici, quello che riceve più link sarà probabilmente quello che si posizionerà più in alto, a parità di contenuto. Quindi se io sono appassionato, che ne so, di auto d'epoca, creo un sito internet e sono il più bravo al mondo a realizzare un sito internet d'auto d'epoca, ma nessuno mi linka, paradossalmente pochi trovano il mio sito. Esatto, è l'effetto collaterale. Forse nessuno trova il mio sito. Probabilmente è l'effetto collaterale di questo tipo di algoritmo, per cui chi produce un buon contenuto ha anche bisogno dei link. C'è da dire che, ed è la risposta che dà Google in questi casi, proprio perché hai un buon contenuto sarai facilmente linkato da altri, perché produrre buoni contenuti su internet genera spontaneamente link. È utile. Sì, sì, in generale è il primo consiglio che viene dato. Esiste un... tu prima hai parlato di autorevolezza, c'è un altro termine che voi utilizzate che è quello di reputazione. Cosa significa? Beh, in generale, per fortuna, non è esclusivamente nostro, è un problema generale. Sì. Si applica in generale a tutte le marche di prodotti o servizi che sono sugli scaffali dei supermercati, si applica alle persone e in campo politico di recente si applica anche a quello. Google è un canale attraverso il quale si può Google, il motore di ricerca, si possono influenzare le informazioni o quello che pensi di una marca, di un prodotto, di un servizio, di un'azienda, ma anche di una persona. Dato che grazie a tutti i contenuti dei cosiddetti social network, quindi tutti quei il web 2.0 che consentono a chiunque di pubblicare quello che pensa online o di commentare quello che c'è online, quindi non è più l'azienda che parla e gli altri che ascoltano, ma è il mercato che parla, è stato possibile per moltissimi criticare o commentare positivamente o negativamente, ad esempio, un modello di cellulare, una marca di prodotti, sono dei classici. Un albergo, eccetera. Sì, i commenti ormai si fanno su tutto. E di recente anche c'è stato un problema di diritto all'oblio nei confronti del fatto che un'eventuale sentenza o un problema legale di qualche persona rimane scritto sui motori di ricerca, rintracciabile vita natural durante, perché una volta che il motore trova un testo e lo indicizza, è molto molto si difficile. Più. Esatto, quindi c'è proprio un problema di persone che hanno avuto problemi legali, magari risolti in maniera positiva, che si stanno cominciando a chiedere che cosa è rimasto su internet, che cosa i motori danno quando cercano il proprio nome. In generale comunque c'è un problema, il motore indicizza talmente tante fonti e molte di queste prodotte dagli utenti stessi, che c'è un impatto forte sulle persone ma anche sulle marche. Rispetto a tanti anni fa, se vogliamo sapere se comprare un certo modello di cellulare, in qualche minuto online abbiamo pareri di persone che l'hanno comprato. Sì, esatto, ma ci sono anche siti internet che ne so, faccio l'esempio degli alberghi, ci sono siti internet che di fatto fanno il mestiere dell'agenzia di viaggio, cioè vendono alberghi che permettono agli utenti di commentare quell'albergo. Magari bastano alcuni commenti negativi e quell'albergo, se io voglio andare in quella città, forse non fa parte delle mie priorità. Esatto, ed è un serissimo problema. Quello che le grandi aziende, i grandi marchi... Diciamo che è anche un vantaggio per gli utenti. Sì, sì, ma anzi è un grande vantaggio per gli utenti, soprattutto perché l'informazione riesce a essere, a parte essere spontanea, perché la dà una persona che è nella stessa, nel caso dell'albergo, nella stessa tua condizione, qualcuno che ci ha dormito la settimana scorsa, quindi ti dice ad esempio se ci sono dei lavori in corso che durano ancora per qualche giorno, per cui di notte farai magari fatica a dormire. È una cosa eccezionale ed è uno dei più grossi vantaggi del web moderno, di quello che viene chiamato web 2.0. Diciamo che anche lì c'è il problema della mediazione del motore. E fra tutti i contenuti possibili, pensiamo ai blog che gli utenti posizionano online parlando delle cose più disparate, il motore fa una cernita, sceglie e posiziona meglio alcuni di questi, che cominceranno per una sorta di effetto domino a essere più visibili, più letti, più linkati e quindi andare sempre meglio. Sì, quindi il vostro mestiere è quello di intanto capire come avvengono questi meccanismi e suggerire alle aziende come far parte di questo grande gioco. Esatto, perché il motore di ricerca è oggi come oggi un grande mercato per prodotti, servizi, ma anche per idee, opinioni, pareri. E bisogna confrontarsi con questo mercato, con persone che cercano e con aziende che purtroppo stanno facendo un po' fatica a capire che il gioco è molto più complicato rispetto ad altri media come la televisione, dove è un po' più push. Il motore di ricerca necessita di un'interazione, necessita anche di mettersi un po' in gioco, perché la gente parla di noi, di ognuno di noi e delle aziende alle quali apparteniamo. Sì, comunque questi concetti sono molto importanti, anche come tu dicevi molto complessi, cioè quello della mediazione, della stessa reputazione. Bastano alcuni commenti magari di pazzi che scrivono cose non veritiere per mandare in tilt alcuni meccanismi di fiducia che esistono nella realtà e nella rete, quindi anche questo fenomeno va quantomeno controllato. Senti, tutto quello che noi abbiamo detto fino ad oggi vale prevalentemente per le aziende che devono confrontarsi oramai, e immagino anche le piccole aziende, o vale anche per le persone? Quindi siti personali, blog, eccetera, eccetera. Beh, in generale vale per tutti. I budget che hanno a disposizione le aziende pubblicitari e di comunicazione dovrebbero cominciare a comprendere sempre di più sia internet che il motore di ricerca, oltre ai più tradizionali mail marketing o banner. Le persone, diciamo che mettiamo una persona che ha un blog, un sito amatoriale, dove parla della sua passione, che può essere la riparazione delle moto d'epoca, ha tutto l'interesse a almeno documentarsi in rete su come costruire un sito, un proprio sito personale, in modo che sia più facilmente accessibile a questi spider e comprensibile ai motori di ricerca. Questo perché fondamentalmente il suo questa cosa tipicamente italiana, se vuoi, di voler parlare, voler dire la propria, di raccontare. Fare l'allenatore della nazionale. Esatto, come al bar. O il presidente del consiglio, visto che siamo. Ma sì, è più divertente l'allenatore della nazionale. Sì, sì, sì. E in questi casi, comunque, tu cerchi di parlare, ma ti devi porre il problema se stai parlando in un bar con due persone o se stai parlando in una piazza con centinaia di persone. Quindi è importante non solo quello che dici, ma anche di come puoi fare a farti sentire da più persone. E la partita si gioca lì. Non serve se vuoi essere più grosso, serve essere più bravo. Senti, ti faccio una domanda sulle aziende. Visto che oggi essere su internet è importante, come dicevamo, se nessuno ti trova su internet, quasi quasi non esisti, le aziende italiane, visto che voi avete insomma una visione del mercato a 360 gradi, sono attente o sono pochissimi quelli attenti a questo mondo che sta cambiando? Allora, da 1 o 2 anni a questa parte la maggior parte di loro sono diventate attente al fenomeno, grazie anche a un grosso lavoro di divulgazione fatto da un po' da tutti gli operatori. Del settore. Il problema più consistente è il fatto che sottovalutano l'importanza del mezzo e soprattutto sottovalutano lo sforzo che devono fare, non solo economico per pagare i consulenti, ma internamente per rendersi più comunicativi su questo canale dove c'è anche un'interazione. Quindi, ad esempio, si preoccupano di promuoversi, ma si dimenticano di valutare cosa la gente dice di loro, quindi il discorso di reputazione che facevamo. È un canale molto complicato. Hanno bisogno di mettersi in gioco, perché pensate ad esempio al banner o all'email. Sono formati che sono più compatibili con la pubblicità tradizionale. Invece di prendere una pagina pubblicitaria, acquisto dei banner su un portale. Il motore invece è più complicato, è iterativo. Gli utenti cercano, qualcuno risponde ed è più complicato. Quindi diciamo, si stanno confrontando col problema, ma rispetto ad altre economie basta uscire dai confini nazionali come la Francia, la Germania e il Regno Unito. Siamo come sempre un po' indietro. Bene, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie Enrico, a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che durante l'estate vi proponiamo le interviste, le chiacchierate più interessanti che abbiamo realizzato nel corso degli anni, o meglio nel corso degli ultimi mesi. È tutto per questa puntata dell'8 e 9 di agosto 2009. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio per la vostra attenzione, buone vacanze se siete in vacanza o ci state andando, e buon lavoro invece a chi la prossima settimana lavorerà come facciamo noi. Buon ascolto naturalmente con i programmi di Radio 24. You are disconnected.